Zolt. Fulminati in azienda. Allora signore, come sapete oggi è l'ultimo giorno per recuperare le vendite di questo trimestre e siamo sotto del 30%. Ecco, io ho fatto comprare 3X900 a Mizzia e c'ha 79 anni e ancora mi sta a male di... Allora silenzio intanto che andiamo avanti. Oggi ognuno di noi è chiamato in nome della nostra società a dare il meglio di sé. La parola d'ordine è vendere, vendere, vendere. Sì, ma io non ho la minima idea di dove iniziare. E tu non ti preoccupare che con tutte le tecniche di vendita che ci siamo inventati non hai che da scegliere. Sì, e come famo? A sorte, che mettiamo i bigliettini dentro un vaso e scegliamo. Bravo, bravo, l'hai detta. Qua già il vaso, ci sono i bigliettini, sapete cosa facciamo? Li apro io. Allora, vediamo, schedula, televendita. Ma televendita? Font, devi organizzare una vendita all'asta. Oh, sofisticato. Centrifuga, venditore ambulante. Che te pareva, mamma mia. Dottor, la me perdoni, migo, ho letto il bigliettino, ma non ho capito cosa c'è scritto. Dammi qua che nel caso fa ma cambio. Allora, ambulante da supermercato con carrozzone musicale. E cosa significa? Significa che te devi vestire con un pagliaccio, attaccarti gli strumenti musicali addosso e bloccare tutti quelli che escono dal supermercato a vendere. Ma allora la vuol far cambio con ma me? Ma non ci penso manco per niente. Che c'ho scritto, Giocondo? Signore e signori, fatevi intorno, prega. Signore e signori, sono qui per distrarvi, divertirvi e anche aiutarvi. Fatevi avanti, assisterete all'incredibile miracolo della scienza, della tecnologia e della medicina. L'X900 è l'oggetto che cambierà le vostre vite, funzionale, versatile, efficace per ogni situazione. Accorrete tutti, accorrete numerosi, perché solo per oggi lo troverete con questo prezzo speciale. Incredibile, amiche! Oggi non ci crederete, ma è il vostro giorno fortunato. Oggi è il giorno in cui finalmente potrete acquistare l'X900, l'oggetto dei vostri desideri. Adesso io lancio un'offerta e la dedico alle prime 100 chiamate in arrivo. Ho detto 100! E non appena saranno arrivate 100 chiamate, io chiudo i battenti, va bene? D'accordo? Buongiorno a tutti, vi ringrazio di aver partecipato così numerosi a quest'asta molto importante per tutti noi, perché il ricavato andrà investito in una causa molto importante che sta a cuore a tutta la nostra azienda. Abbiamo tanti oggetti in asta oggi, perciò vorrei iniziare subito da questo X900 che risale proprio agli inizi del Novecento, donato a Federico IV dalla regina Elisabetta. Le decorazioni sono in materiali pregiati e il prezzo a base d'asta è... Giovane, non corre, ascolta un attimo, ti interessa un X900? No. A capo, fermati un momento e ti faccio vedere come funziona, guarda, via qua, No, devo andare, va là. È un'occasione unica, non ti immagini quanto è difficile trovare prodotti di sto livello, sono rari, sono veramente rari. Vabbè. Pronto? Pronto, uè, c'entri? Uè, sul pezzo. Tutto bene, immagino. Sta andando benissimo. Non avevo dubbi, però ascolta qui sul pezzo cosa fa. Ho deciso di venirti a trovare, così ti do una mano e vedrai che in due raddoppiamo, c'entri. Ma sei sicuro? Perché secondo me se ci viviamo a stessa zona ci dimezziamo pure le possibilità. Ma no, c'entri, fidati di me, io c'ho il fiuto per queste cose, c'ho naso. E visto che siamo già in giro potremmo anche fare un po' di vendite porta a porta, door to door. Sì, vabbè, se mettiamo pure a suonare i citofoni, mica avevamo più 12 anni. Ma cosa c'entra? Ma no, ma andiamo a bussare alla porta di Simpatia. Simpatiche signore, come gli albori della mia carriera, c'entri? Hai cominciato coi signori a domicilio, hai capito sul pezzo? E bravo! Se vuoi saperne di più, www.zoot.tv 3Z2O 1T.